giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pugnalato nella notte un giovane a San Dorligo della Valle, stava rientrando a casa, è stato colpito per 3 volte di seguito, ferite profonde. Sul fatto indagano i carabinieri. Arriva l'assistente infermiere anche in Friuli Venezia Giulia, nuova figura tra OSS e infermiere. Istituita nel 2024, sarà accessibile solo agli attuali OSS con formazione di un anno sotto supervisione ARCS. Collaborerà esclusivamente con gli infermieri, alleggerendone i compiti più ripetitivi. Sulle strade stamattina picco di 6 km di coda all'Isert con 5.000 veicoli in più rispetto al 2023, complice anche il blocco dell'H4 slovena. Il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia denuncia l'impreparazione dei gravi disagi per transfrontalieri e trasporti. Moschee di Monfalcone, il Consiglio di Stato rinvia al 9 dicembre la decisione sul ricorso del centro Darussalam. I giudici ritengono necessaria un'ulteriore valutazione nel merito. L'eurodeputata Cisinte esprime soddisfazione, mentre il centro islamico ricorre anche alla Corte europea e chiede al Comune un'area per il culto. Controllo della polizia locale lungo la costiera Trieste, bloccati alimenti trasportati senza refrigerazione, rischio per la salute pubblica. Il cardinale Mamberti a Aduino, il conclave, esperienza commovente di grande responsabilità. Il protodiacono che annunciò l'elezione di Papa Leone XIV lo scorso 8 maggio in visita privata in regione racconta l'emozione di quel momento. A Udine, tornata in Serie A, presenta ufficialmente a Malborghetto la squadra. I nuovi acquisti, dice a microfono il presidente Pedone, sono giocatori pieni di risorse che abbiamo scelto con attenzione. Il derby contro Trieste ad ottobre, non vediamo l'ora, sarà una vetrina per la regione. Buongiorno da Dario Ronzoni e Anna Vitaliani in studio per questa seconda edizione del GR regionale della RAI. In apertura dunque la cronaca. A San Dorligo della Valle un ragazzo è stato accoltellato nella notte mentre stava rientrando a casa. Il fatto è avvenuto intorno all'1 di notte. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato ferito alla spalla e al torace posteriore sotto la scapola. 3 le pugnalate inflitte al giovane, che è stato soccorso dal 118 portato a Cattinara in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma secondo i sanitari è stata sfiorata la tragedia. Sulla dinamica indagano i carabinieri, che mantengono riservo. Al momento non si sa chi sia l'aggressore. Si chiama assistente infermieristico, è la nuova figura sanitaria introdotta dalla regione, posizionata tra l'operatore sociosanitario, l'OSS, e l'infermiere. Una risposta proprio per affrontare il calo degli infermieri e sgravare parte del loro lavoro. Ma quando verrà introdotta questa nuova figura nel sistema sanitario regionale, dove e in che numero il servizio? Si chiama assistente infermiere, la nuova figura sanitaria che si collocherà tra l'OSS, l'operatore sociosanitario, e l'infermiere. Istituita con un accordo tra Stato e Regioni nel 2024, è stata inserita in una preintesa del contratto collettivo nazionale del settore sanitario e sarà realtà tra qualche anno in Friuli Venezia Giulia. Bisognerà prima calcolare il fabbisogno, definirne il contratto e lanciare i corsi formativi. Durata massima per questi 1 anno. Saranno supervisionati dall'Azienda Regionale di Coordinamento, ARCS. L'accesso sarà riservato a chi attualmente svolge il ruolo di OSS, circa 3.500 persone in regione. Rispetto agli OSS, che collaborano con tutti i professionisti della salute, risponderebbero direttamente ai soli infermieri. Stefano Giglio, presidente dell'Ordine di Professioni Infermieristiche di Udine. Potrebbe essere inserito all'interno delle strutture ospedaliere, ma sicuramente in tutta la filiera socio-assistenziale, quindi anche su tutto il territorio. Soddisfatti gli ordini professionali, alcuni sindacati firmatari come il NURSIND, ma anche le strutture private. Aspettiamo notizie sull'apertura dei corsi, ci dice il gestore di una di queste. Potrà effettuare tutte quelle attività, soprattutto ripetitive, assistenziali, medicazioni semplici, potrà somministrare delle terapie orali, sicuramente non delle somministrazioni di terapie molto complesse, e potrà sicuramente sgravare la componente infermieristica di tanti aspetti assistenziali che in questo momento potrebbero essere gestiti in modo completamente diverso. Critiche CGIL e UIL, che non hanno firmato la preintesa del contratto collettivo, mettono in guardia da operazioni calate dall'alto con lo scopo di risparmiare sul personale, sostituendo gli infermieri che non si trovano con figure che costano meno, soprattutto nella sanità privata e nell'RSA. Senza infermieri non potrebbero lavorare, sono figure integrative, ribatte Luciano Clarizia, presidente regionale dell'Ordine degli Infermieri. Ma se l'infermiere dovrà supervisionare il lavoro di un'altra figura, si dovrà allora parlare anche del suo contratto. Avrà delle responsabilità sicuramente maggiori, che dovranno essere in qualche modo anche riconosciute. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare di traffico. In questo momento il traffico risulta abbastanza scorrevole. Nella mattinata però si è registrato un picco di auto attorno alle 10 con 6 km di coda all'Isert rispetto al previsto, fa sapere Autostrade Alto Adriatico. In questo periodo si stanno contando circa 5.000 mezzi in più su strada rispetto allo scorso anno. Solo ieri 1.000 auto in più rispetto alla settimana precedente. Lo abbiamo documentato in questi giorni, giornate insomma di passione sulla rete autostradale tra Italia e Slovenia, in particolare per il blocco della H4. Questo pomeriggio alle 15 in prefettura Trieste si terrà infatti un vertice alla presenza delle autorità di entrambi i paesi, che servirà ad affrontare il problema della chiusura del ramo autostradale in Slovenia, che sta creando disagi su tutto il percorso tra Fernette, Sestiana e l'Isert. Intanto il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia annunciato la grave impreparazione delle autorità competenti, così scrivono nella nota stampa, su cui va a incidere anche, secondo il Consiglio, il ripristino dei controlli ai confini. Secondo l'ente, i rallentamenti stanno provocando, oltre alle ripercussioni economiche sul traffico camionistico e turistico, grandissimo disagio per il traffico transfrontaliero e soprattutto per i lavoratori frontalieri, costretti a tempi di attesa imprecisati per andare e tornare dal lavoro o a lunghi percorsi alternativi. Questa mattina a Udine due automobili intorno alle ore 7:30 si sono scontrate lungo viale Leonardo da Vinci e via Cadore. Uno dei due mezzi, passando un incrocio, non avrebbe rispettato il rosso, andando così a schiantarsi contro l'altra automobile e capottandosi. Entrambi i conducenti hanno riportato solo lievi ferite e sono stati ricoverati per accertamenti. A Trieste è ancora massiccia la presenza di migranti all'Addiaccio. Il sindaco di Trieste propone un nuovo sgombero dai magazzini di Porto Vecchio, ma il prefetto al momento non si sbilancia e intanto prosegue il flusso di persone dalla rotta balcanica che passa per la città e spesso sceglie di fermarsi qui o in Italia. In servizio. Nel mese di luglio sono state in media 28 al giorno per un totale di 856 le persone migranti in arrivo a Trieste censite dall'International Rescue Committee Italia e dalla Diaconia Valdese, che ogni giorno nell'area della stazione di Piazza Libertà offrono a chi arriva informazioni legali e prima assistenza. I numeri sono contenuti nel report mensile stilato dalle associazioni, che registra un aumento del 15% degli arrivi rispetto al mese di giugno, quando erano stati 756. La maggior parte dei migranti, 8 su 10, sono adulti, il 90% dei quali uomini. Nella maggior parte dei casi si è trattato di uomini soli, il 63%, ma sono arrivati anche 100 minori stranieri non accompagnati e 41 nuclei familiari per un totale di 198 persone. Il principale paese di provenienza, arriva da lì un migrante su tre, è l'Afghanistan, ma la maggior parte dei nuclei familiari arriva da Turchia e Siria, in particolare dalle regioni del Kurdistan. Oltre metà delle persone incontrate intendono chiedere asilo a Trieste o in altre città in Italia, un dato che secondo le organizzazioni conferma il trend in crescita nel 2025 di chi identifica il nostro paese come destinazione finale per accedere alla procedura di protezione internazionale. Intanto la pensilina di Largo Santos e i vecchi magazzini del Porto Vecchio continuano a essere l'unico rifugio per la notte per almeno un centinaio di persone, molte delle quali proprio in attesa di un posto nel sistema di accoglienza. Infatti, nonostante i trasferimenti che nell'ultimo anno sono stati in media 60 a settimana, il centro di Camposacro da almeno un anno attende i lavori per ampliare la sua capienza, oggi ferma a 80 posti. Nel frattempo, dopo quello di due settimane fa, il sindaco di piazza ha annunciato un nuovo sgombero dell'area del Porto Vecchio, questione su cui però il prefetto di Trieste Petronzi, da noi interpellato, non ha voluto rilasciare commenti. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Nuovo capitolo per la vicenda della moschea Monfalcone. Ieri il Consiglio di Stato ha discusso l'istanza di sospensiva presentata dal centro islamico Darussalam contro il provvedimento di acquisizione dell'immobile da parte del Comune. I magistrati hanno ritenuto che le questioni sollevate, seppur ad un primo esame di dubbia fondatezza, meritano comunque un approfondimento e che, in assenza di concreti tentativi di spossessamento dell'immobile, la questione sarà definita nel merito in un'udienza fissata il 9 dicembre. L'eurodeputata Cisinte esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. Intanto comunica l'avvocato La Torraca, che si occupa della difesa del centro islamico Darussalam, ha promosso un ricorso anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ritenendo che a tutela del diritto di culto l'associazione, riunione e proprietà non debba essere lasciato nulla di intentato. Chiederà anche al Comune, con istanza formale, di individuare un'area da dedicare al culto, considerato che quasi un terzo della popolazione residente è rimasta senza luoghi dove pregare. Uno sportello dedicato ad anziani, persone fragili e caregiver, quello presentato a Trieste, offerto da Comune in sinergia con la Regione. Nel 2050 gli anziani over 80 aumenteranno del 50% rispetto ad oggi, ovvero 163.000 persone, come ha ricordato l'assessore Rosolene. Questo ci impone un cambio sostanziale dell'approccio al sistema di welfare, che deve essere fatto di informazione, formazione e servizi. Lo sportello realizzato a Trieste va in questa direzione in servizio. La società invecchia, soprattutto a Trieste. L'aumento della popolazione anziana over 80, previsto nel 2050, sarà del 50% in questo territorio. Diventano necessari nuovi servizi, lo sportello di supporto alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie sarà operativo dal 1 settembre. Sarà più facile l'accesso ai servizi amministrativi e digitali, in particolare per quanto riguarda l'assistenza a domicilio per la cura dei propri cari. Massimo Tognogli, assessore comunale ai servizi sociali. Quando tu ti trovi, come io mi sono trovato a essere un caregiver, quindi avere una persona anziana in famiglia, ti trovi davanti a un muro. Quindi questo comporta una grande responsabilità per noi, che è quella di informare le persone, di accompagnarle per mano, di orientarle anche in quelle che sono delle pratiche burocratiche che molto spesso sono complesse. Stefano Chicco, direttore servizi sociali del Comune di Trieste. Una occasione per le famiglie di acquisire informazioni rispetto a alla gestione del quotidiano, quando ci trova in casa una persona che comincia a diventare non autosufficiente, questo scatena delle esigenze anche di natura amministrativa burocratica per organizzare l'aiuto quotidiano, organizzare la vita quotidiana della persona. Lo sportello sarà attivo in via Mazzini 25 il lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Per un appuntamento bisogna prenotarsi al numero unico comunale 040 971 45 45. Lo sportello lavorerà in collaborazione con il servizio Siconte della Regione, che si dedica all'intermediazione fra domande e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare. Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro. Nel 2050 ci saranno il 50% di over 80 in più. È una società che sta cambiando profondamente nei bisogni, deve cambiare profondamente anche nei servizi che il pubblico dà. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mobilità sostenibile, transizione energetica, progettazione urbana inclusiva e resiliente, ma anche riqualificazione edilizia e ridisegno del fronte mare di Trieste. Sono i temi al centro di Let's Change, il clima sta cambiando, parliamo nel nuovo progetto promosso dall'Università di Trieste, presentato questa mattina. A partire dal 3 settembre il Dipartimento di Ingegneria e Architettura darà il via ad un ricco calendario di eventi, incontri pubblici, proiezioni di film, laboratori e workshop aperti a tutta la cittadinanza, rivolti in particolare a studenti e studentesse delle scuole e dell'università. L'obiettivo, ha spiegato la coordinatrice Elena Marchigiani, è quello di offrire una discussione aperta basata su studi e riflessioni scientifiche, affrontando temi sempre più urgenti per il territorio triestino, dagli eventi estremi alle trasformazioni degli ecosistemi urbani e marini. Il primo appuntamento è in programma il 3 settembre alle 18 al Caffè San Marco con l'incontro Tramp, bus elettrici e trasporti alternativi. Questo progetto va oltre la semplice divulgazione, ha sottolineato la rettrice Donata Vianelli, perché vuole creare un vero dialogo con il territorio, capace di generare ascolto, stimolare nuove ricerche e contribuire a costruire il futuro della città. È salpata questa mattina a Trieste, da Trieste la nave rompighiaccio Laura Bassi, che questa volta è diretta al caldo. Non solo missione in Antartide per la Laura Bassi, la nave da ricerca oceanografica e geofisica dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, che oggi parte da Trieste, dall'attracco in riva Giovanni da Verrazzano, questa volta diretta alle Eolie, da cui rientrerà il 15 settembre prossimo. Obiettivo: approfondire gli studi di aree strategiche e provare nuove strumentazioni oceanografiche, ricorrendo anche a un veicolo sottomarino autonomo che ha capacità operativa fino a 3.000 metri di profondità. In questo modo sarà possibile raccogliere dati geofisici, geochimici e morfologici dei fondali marini. Nel contempo verranno raccolti campioni di sedimenti e dati acustici. Non solo. Altre informazioni saranno raccolte nel corso della navigazione nell'Adriatico, che darà modo di calibrare la strumentazione scientifica e di compiere monitoraggio acustico per analizzare i suoni emessi dai mammiferi marini. Tutte attività di preparazione alla prossima missione antartica, che sarà avviata dalla Laura Bassi a Trieste il 4 ottobre. Due le fasi della campagna oggi in avvio. innanzitutto a Trieste e poi, dopo una tappa a Milazzo, la nave si concentrerà sulla ricerca scientifica e la manutenzione degli ancoraggi oceanografici per il monitoraggio del mondo sommerso. Fiore all'occhiello della missione, la multidisciplinarietà che incrocerà i risultati biogeochimici, fisici ed ecologici, ricorrendo non solo al veicolo sottomarino ma anche a robot subacquei. Tutte attività che verranno svolte nell'ambito del progetto Itineris, finanziato dal PNRR, di cui l'Istituto è partner, finalizzato alla creazione di una rete di accesso a dati, servizi e strutture per lo studio dell'atmosfera, della biosfera e della geosfera. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Durante un normale controllo stradale lungo la strada costiera, una pattuglia del quarto distretto di Opicina ha fermato un furgone isotermico che trasportava generi alimentari destinati a un esercizio commerciale cittadino. Gli agenti hanno subito rilevato che il gruppo frigorifero era spento e che la temperatura interna del veicolo era di 22 gradi, incompatibile con la corretta conservazione dei prodotti. Nel furgone si trovavano latte, burro, panna fresca, salmone affumicato e altri alimenti deperibili. Dopo aver richiesto l'intervento della SUGI, è emersa la non conformità del trasporto con conseguente blocco ufficiale della merce. Il Castello di Duino, residenza privata ma aperta al pubblico dal 2003 nei mesi estivi, è una meta molto amata dai turisti. In questi giorni il castello è stato visitato anche da un alto rappresentante ecclesiale, il protodiacono, il cardinale francese Dominique Mamberti, che a maggio, al termine del conclave, ha annunciato l'elezione del nuovo Papa. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. È stato così che lo scorso 8 maggio, dopo la fumata bianca, il protodiacono, il cardinale Dominique Mamberti, affacciandosi alla loggia centrale della Basilica Vaticana, ha annunciato il nome del nuovo Papa, Leone XIV. Durante la sua visita, in forma strettamente privata, a Duino, gli abbiamo chiesto come ha vissuto quel momento storico. E tutto il conclave che è un momento molto, molto impegnativo e commovente su tutti i profili, e uno sente il peso della responsabilità che gli incombe di eleggere il nuovo successore di San Pietro. Il mondo è ferito da continue guerre. Il Papa auspica che i cuori siano liberati dall'odio e che si esca dalle logiche della divisione. Davanti a questo scenario internazionale così incerto e preoccupante, il protodiacono dove vede qualche possibilità di dialogo e pace tra i popoli? Quest'anno viviamo il giubileo che Papa Francesco ha voluto dedicare proprio alla speranza, pellegrini di speranza. Bisogna pregare affinché gli uomini aprino il loro cuore ai sentimenti che Cristo ci ha manifestato, l'amore di Dio e l'amore del prossimo che vanno insieme. Ma come mai il Cardinal Mamberti ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza proprio nella nostra regione? Vengo in Friuli da ormai 5 anni. All'inizio è stato in occasione di un ciclo di concerti promossi dalla Fondazione del Cardinale Domenico Bartolucci e poi mi è molto piaciuto, ho fatto qualche amicizia e da quel tempo torno molto volentieri per scappare dal caldo di Roma durante l'estate. Duino, Ines Cabar, TGR Friuli Venezia Giulia. E sull'omicidio di Gemona, una reazione a una notizia che abbiamo dato proprio nelle nostre scorse edizioni del GR rispetto ai futuri funerali di Alessandro Venier, che secondo la madre dovrebbero essere fatti con rito civile. Interviene una parlamentare, la senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, che dice: destano scalpore gli ultimi sviluppi sulla morte di Venier, il 35enne di Gemona, che secondo l'accusa è stato fatto a pezzi dalla compagna e dalla madre reo confessa. A distanza di un mese dall'uccisione sarà proprio quest'ultima, cioè la madre, a disporre delle spoglie del figlio che, secondo quanto è emerso, ha assassinato, decidendo non solo la data dei funerali ma anche la sepoltura e una eventuale cremazione. Ciò, oltre a essere eticamente inaccettabile, ha detto la parlamentare, potrebbe influire gravemente sulle indagini e sull'esito processuale. Un vero paradosso, un'aberrazione consentita dall'attuale legislazione in Italia, che prevede che, in assenza di testamento, a disporre la salma del defunto, ossia il parente più prossimo. Sono le 12.50, diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno sulla costa, nuvoloso in pianura, in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 25 gradi, con mare quasi calmo, con temperatura anche questo di 25 gradi. A Gorizia 25 gradi e mezzo, a Udine 25, Pordenone 24 e mezzo, Tolmezzo 22 gradi e mezzo, Tarvisio 20 gradi a Forlì di Sopra, 17 e mezzo a Sappada, 17 a Piancavallo, sul Lussari e sullo Zoncolan 14 gradi, sulla costa Legnano e Grado 26 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA, oggi pomeriggio sulla costa cielo in genere poco nuvoloso variabile con vento da sud moderato tra Legnano e Grado, in pianura e sui monti nuvolosità variabile con possibili rovesci locali e qualche isolato temporale più probabile sulle prealpi. Basket, si alza il sipario sulla nuova stagione dell'APU Udine, alle ore 12 a Malborghetto è prevista la conferenza stampa, è stata la conferenza stampa con il presidente Alessandro Pedone, il direttore sportivo Andrea Gracias e il coach Adriano Vertemani. Sono stati presentati nuovi giocatori, l'allenamento poi del pomeriggio è a porte aperte del Palasport di Tarvisio. Udine quindi torna dopo più di 20 anni in Serie A. Quali sono gli obiettivi della neopromossa? Lo abbiamo chiesto al presidente, sentiamo. È quello di tenere la categoria, perché dopo tanta fatica fatta è chiaro che l'obiettivo principale è dichiaratamente la salvezza, per poi poter magari pensare a qualcosa di più. Oggi la presentazione ufficiale della squadra anche con i nuovi innesti. Cosa possono portare di più questi giocatori? Abbiamo fatto una squadra di giocatori che non vengano a Udine, diciamo, a svernare in pantofole, perché magari a fine carriera o magari che arrivino da palcoscenici troppo più importanti della Serie A italiana, ma abbiamo scelto dei giocatori che vogliono dimostrare di poter essere in rampa di lancio per avere anche qualcosa di migliore rispetto alla Serie A italiana. Ogni ingrediente della squadra è stato scelto, voluto e desiderato sia dal coach che dal GM Gracis per creare quello spirito di gruppo e quello spirito di squadra di cui una squadra come la nostra ha forte bisogno per potersi esprimere al meglio. Torna il derby in Serie A, già sappiamo la data, il 26 ottobre. Come la vivete questa sfida, considerando il campanilismo che c'è tra le due città e ancora di più tra le due tifoserie? Io i derby ne ho già vissuti, li ho vissuti tutti in A2, vincendone qualcuno e perdendone qualcun altro, però devo dire la verità, insomma, è una festa dello sport, è una festa della regione, è una vetrina della nostra regione. Sarà bello rivedere gli sfottò, io ne ricordo alcuni meravigliosi subiti, ricordo ancora quando giocavamo a Cividale e mi fecero una regina degli scacchi alla bardata biancorossa che infilzava un pedone bianconero, ancora ci rido, insomma, queste sono le cose belle dello sport, insomma, dei derby. La vela è scattata oggi nel Golfo di Trieste, il campionato italiano ORC Double Handed. Ieri la prima prova offshore dal bacino San Giusto, puntando al faro di San Giovanni in Pelago e ritorno sulla linea di arrivo di Porto San Rocco. La cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco, che ha aperto ufficialmente la manifestazione, che si concluderà sabato con le premiazioni e con la seconda e ultima prova, cioè la regata costiera di 6 o 8 ore, in programma venerdì. E a Gorizia stamane è iniziata la Summer School di Leggiamo 018 Friuli Venezia Giulia, evento dedicato a insegnanti, educatori, pediatri, operatori sociosanitari per promuovere la lettura tra i giovani. 4 gli interventi in programma, a partire da quello di Costanza Panza, medico pediatra, sul ruolo della musica dei bambini. Ha parlato anche lo scrittore e regista Manlio Castagna, che si è concentrato su letteratura e linguaggi audiovisivi. Alle 15 parlerà la sociolinguista Vera Gheno sul cambiamento linguistico. Si chiude con Maria Rosa Aria Colagrossi e Vinicio Ongini, che alle 16.30 discuteranno di identità plurali. Tutti gli incontri si tengono nell'auditorium della cultura friulana di Gorizia. Ed è tutto per questa edizione, redatta e condotta da Dario Ronzoni e Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Bruno Montevecchi. Grazie per l'ascolto, il prossimo GR è alle ore 15. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.